Ciao. Mi spiace, guarda, avevo pensato, proviamo a trovare delle altre notizie, però di fatto, in particolare, visto quello che è successo a partire da sabato notte, poi domenica, qui da noi in Lombardia, siamo sulle prime pagine di tutti i giornali. Punto, questo è. Sì, persino il Wall Street Journal, per darvi un'idea, sceglie come fotonotizia quel maxi, uno dei di quei maxi schermi che c'erano ieri in Piazza San Pietro per far vedere l'Angelus in streaming, per dare l'idea, insomma, forse è il volto più conosciuto, uno dei volti più conosciuti al mondo. Poi il Wall Street Journal parla anche degli sforzi americani per contenere, anzi degli sforzi globali per contenere il virus, parla naturalmente della questione del petrolio, perché si capiva che sarebbe stato il tema oltre che avrebbe pesato sulle borse oltre al coronavirus, e poi si parla anche un po' invece più nello specifico degli Stati Uniti, in particolare però sul New York Times. Washington Post mette in prima pagina una foto con sullo sfondo l'ingresso della Galleria Vittorio Emanuele, Piazza del Duomo deserta. È una fotonotizia, il titolo principale dedicato appunto alle misure americane. Se volete sentiamo un breve brano di Anthony Fauci, che insomma chi ha qualche anno forse se lo ricorderà, perché era stato il grande esperto che aveva un po' risolto la questione dell'antrace, il bioterrorismo all'epoca. E insomma è uno che ha tantissime esperienze, è un super esperto, è nella squadra di Trump, però sta dicendo in televisione delle cose che a Trump non piacciono per niente. Sentiamo per esempio questo brano strano. Perché in genere Trump apprezza molto tutti i suoi collaboratori. Sì, ne ha appena licenziato anche il... Sentiamo. You know, we have to be realistic. I don't think it would be as draconian as nobody in and nobody out, but there'll be if we continue to get cases. Dice, dobbiamo essere realistici quando gli chiedono, ma potrebbe esserci un lockdown come quello che è stato appena deciso in Italia? Lui, forse con misure non così draconiane. Tra l'altro tu Alessio hai appena spiegato che di draconiano hanno molto sulla carta, ma poi nel pratico ancora poco sappiamo, però non così draconiane che nessuno entra e nessuno esce, però per esempio proibire grandi riunioni con più di 1000 persone, che è esattamente quello che ha deciso di fare la Germania, quello sì, realisticamente dobbiamo prepararci. E l'intervistatore, perché questa è la cosa abbastanza importante, che era un'intervista rilasciata a Fox News, che sappiamo è il canale, oltre ad essere il canale televisivo più visto negli Stati Uniti, è anche quello che è più vicino alle posizioni di Donald Trump, che naturalmente non approverebbe questo tipo di realismo di Anthony Fauci. Che altro, sempre se vuoi sui giornali americani o se vuoi già passare in Europa? Sì, guarda, ti direi la Germania, perché i tedeschi sono molto colpiti da Venezia, quindi la Welt ha come fotonotizia la foto di un caffè veneziano in una piazza veneziana chiusa, e però il titolo principale, l'analisi, è dedicata alle varie posizioni che stanno prendendo i politici tedeschi sulla questione di Erdogan. Sapete che è stato deciso per esempio di accogliere in una prima fase alcune migliaia di bambini profughi, però per tutti gli altri si continua a discutere. La Süddeutsche Zeitung mette invece una foto abbastanza straziante di Piazza San Marco, un cameriere in mezzo a tutte le sedie vuote, e poi però il titolo principale, qui sono le dichiarazioni di Spahn, il ministro della salute, che dice adesso però dobbiamo veramente tutti prenderci le nostre responsabilità. Insomma, se anche i tedeschi sentono la necessità di far capire che anche se il nemico è invisibile, il nemico c'è ed è fortissimo. E poi parlavi prima del calcio in Italia, visto poi questa proibizione appunto di qualsiasi riunione con più di 1000 persone, le partite si giocano a porte chiuse, la Bild le chiama le partite fantasma, e però si sta pensando anche lì a misure ancora più restrittive, perché anche in Germania i calciatori si spostano, quindi non si capisce perché loro sì e le persone normali no. C'è qualcosa sui giornali? Ieri è stato l'8 marzo, c'è qualche traccia sui giornali di oggi della festa? Ma devo dirti, ieri appunto le manifestazioni qui sono state fatte in quella modalità giustamente responsabile, sì, di tenersi a distanza. Invece a Madrid, ed è la foto principale di El País, c'è stata una grande manifestazione. Qualcosa di simile anche in Messico, perché lì il dato sui femminicidi è in costante aumento, c'è una cultura molto machista ancora in Messico. E poi però a parte questo, fatto insomma anche ieri sui giornali di ieri, così sembrava un po' una il coronavirus ha spazzato via anche l'8 marzo, però El País titola in realtà proprio titolo principale sulla, sull'intervista che ha Giuseppe Conte. Ricorderete giovedì scorso l'intervista a Matteo Salvini dove diceva che il governo era assolutamente inadeguato a gestire questa emergenza, si era così dimostrato fino a quel momento, e Giuseppe Conte ha fatto questa intervista, questa controintervista potremmo dire, e il titolo virgolettato è: in realtà sono stato chiamato criminale, ma sarei stato un criminale se avessi occultato i dati del virus o avessi minimizzato il pericolo. Ho visto delle foto di Meghan e Harry in giro qua e là, non ho capito bene perché, non ho letto sinceramente la notizia. È la loro grande, nel senso dei britannici, la grande arma di distrazione di massa. Esatto. E quindi il Daily Mail, caratteri cubitali, terza vittima del virus negli UK, però la foto è una foto molto curiosa che hanno usato in tanti, perché Harry è un po' accigliato e Meghan fa quasi una smorfia, lei che è così attenta a farsi vedere sempre sorridente, e dice un penny for your thoughts, che è il modo che usano gli inglesi per dire un centesimo per i tuoi pensieri, perché sono apparsi nella seconda uscita ufficiale di questa ultima visita nel Regno Unito come rappresentanti della famiglia reale per una serie di eventi sostanzialmente di beneficenza, è sembrato esserci un po' di tensione sulla quale qualunque giornale britannico, serio o non serio, tabloid non tabloid, ricama. Mai come in questo momento questa distrazione di massa, sì. La gradisco anch'io molto, Harry e Meghan, e via un po' di casa reale britannica. Grazie, ex casa in questo caso, reale britannica. Grazie Giulia, ci risentiamo domani naturalmente con te e con Effetto Mondo. È tutto per la puntata di oggi, con Andrea Roccabella in regia, Jacopo De Franchi, Danilo Di Trani in redazione. Da Alessio Maurizio, auguro di una buona giornata, vi lascio ad hashtag autotrasporti.